Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 16 Paolo in Listri preso seco Timoteo lo circoncide, e in varie città insegna l'osservanza dei precetti apostolici. Lo Spirito Santo proibisce loro di predicare nell'Asia, e nella Bitinia. Chiamato in visione Paolo nella Macedonia, vanno colà, e predicando dapprima in Filippi sono ricevuti in casa da Lidia, ma avendo Paolo cacciato uno spirito pitone, battuti con verghe sono messi in carcere. Succede un tremuoto, e spezzati i loro legami il custode della carcere si converte. Il di seguente i magistrati li pregano a partirsi dalla città. Arrivo adunque a Derbe, e a Listra. Ed ecco, che qui vi si ritrovava un certo discepolo per nome Timoteo, figliuolo di una donna giudea fedele, di padre gentile. A lui rendevano buona testimonianza i fratelli, che erano in Listra, e in Iconio. Volle Paolo, che questi andasse seco, e presolo lo circoncise per riguardo dei giudei, che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano, che il padre di lui era gentile. E passando di città in città raccomandavano di osservare le regole stabilite dagli apostoli, e dai sacerdoti, che erano in Gerusalemme. E le chiese si assodavano nella fede, e diventavano ogni giorno più numerose. Passata poi la Frigia, e il paese della Galazia, fu loro vietato dallo Spirito Santo di annunziar la parola di Dio nell'Asia. Ed essendo giunti nella Misia tentavano di andare nella Bitinia, ma non permise loro lo Spirito di Gesù. E traversata la Misia, giunsero a Trode. E fu veduta la notte da Paolo una visione. Un certo uomo di Macedonia se gli presentava pregandolo, e dicendo, passa nella Macedonia, e aiutaci. E subito che egli ebbe veduta questa visione, cercammo di partire per la Macedonia, accertati, che ci avesse il Signore chiamati ad evangelizzare colà. E fatta vela da Trode addirittura andammo a Samotracia, e il di seguente a Napoli. E di lì a Filippi, Colonia, che è la prima città di quella parte di Macedonia e dimorammo in questa città alcuni giorni. E il giorno di sabato uscimmo fuori di porta vicino al fiume, dove pareva che fosse l'orazione, e postici a sedere parlavamo alle donne congregate. E una certa donna per nome Lidia della città di Tiatira, che vendeva la porpora, timorata di Dio, ascoltò, cui il Signore aprì il cuore per attendere a quello che diceva Paolo. E battezzata, che fu ella, e la sua famiglia, pregò, dicendo, se avete giudicato che io sia fedele al Signore, venite, e fermatevi a casa mia, e ci fe forza. Accadde poi, che andando noi all'orazione, una serva, che aveva lo spirito di pitone, ci venne incontro. E la portava molto guadagno a suoi padroni col fare l'indovina. Costei seguitando Paolo, e noi, gridava, questi uomini sono servi di Dio Altissimo, che annunziano a voi la via della salute. Ciò ella faceva per molti giorni. Ma Paolo annoiato, rivoltosi disse allo Spirito, ordino a te nel nome di Gesù Cristo, che esca da costai, e nel medesimo punto se ne andò. Ma vedendo i padroni di lei, che se ne era andata la speranza del loro guadagno, presero Paolo, e Sita, e li condussero nel foro ai decurioni, e presentatigli ai magistrati, dissero, questi uomini mettono sopra la nostra città, essendo giudei, e predicano cerimonie, le quali non è lecito a noi di abbracciare, né di praticare essendo noi romani. E insieme la moltitudine insorse contro di essi, e i magistrati, lacerate loro le vesti, ordinarono, che fossero battuti con le verghe. E date loro molte battiture li cacciarono in prigione, dando ordine al custode, che facesse buona guardia. Il quale ricevuto simil comando, li mise nella più profonda segreta, e strinse in ceppi i loro piedi. E sulla mezzanotte Paolo, e Sila oravano, cantando laudi a Dio, e i carcerati li udivano. Ma a un tratto venne un gran tremuoto, e tale, che si scossero le fondamenta della prigione, e si aprirono di subito tutte le porte, e si sciolsero a tutti le catene. E risvegliatosi il custode della prigione, e vedute aperte le porte della prigione, sguainata la spada, voleva uccidersi, credendo che i prigioni fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce, dicendo: «Non fare a te male alcuno, mentre siam qui tutti quanti». E quegli, avendo chiesto del lume, entrò dentro, e tremante si gittò a piedi di Paolo e di Sila. E menatili fuori, disse: «Signori, che deggio fare per esser salvo?» Ed essi dissero: «Credi nel Signore Gesù, e sarai salvo tu e la tua famiglia». E parlarono della parola del Signore a lui e a quanti erano nella di lui casa. E presili seco in quella stessa ora di notte, lavò le loro piaghe, e fu battezzato egli e tutta la sua famiglia immediatamente. E condottigli a casa sua, apparecchiò loro da mangiare, e fece festa dell'avere creduto a Dio con tutti i suoi. E fattosi giorno, i magistrati mandarono i littori a dire: «Metti in libertà quegli uomini». E il custode portò questa nuova a Paolo: «I magistrati hanno mandato a liberarvi, or dunque uscite, e andatevene in pace». Ma Paolo disse loro: «Ci hanno battuti pubblicamente, senza che fossimo condannati. Romani, come siamo, messi in prigione, e ora nascostamente ci mandan via? Non sarà così, ma vengano, ed egli non ci tragan fuora». Riferirono i littori queste parole ai magistrati, i quali, sentendo che erano romani, ebber paura, e andarono, e fecer loro buone parole, e trattili fuora li pregarono di partirsi dalla città. Ed egli, usciti di prigione, entrarono in casa di Lidia, e veduti i fratelli li consolarono, e si partirono. Note 16,1 a Derbe e a Listra, eci. Due città della Licaonia. In questa seconda Paolo trovò Timoteo, di una donna giudea fedele. Il suo nome era Eunice, ed ella era stata delle prime a credere in Gesù Cristo, di padre gentile. Il testo originale porta di padre greco, che è lo stesso, o vuol dire il sacro storico, che il padre di Timoteo era gentile di origine e di religione. Non era lecito a un uomo ebreo di sposare una donna straniera, ove questa non abbracciasse la legge di Mosè, ma secondo l'uso d'allora non era vietato alle donne ebree di prendere per marito uno straniero, purché questi fosse di buoni costumi e temesse Dio, come erano non pochi gentili già persuasi della vanità dell'idolatria, e con qualche lume del vero Dio acquistato per mezzo dei libri santi, i quali libri si erano sparsi per tutto il mondo con la nazione che li aveva in deposito, e per mezzo del commercio con la stessa nazione. 16,2. A lui rendevano e ci è molto probabile che esse, Paolo, conoscesse di lunga mano Timoteo, e per conseguenza la sua pietà, la sua fede, e ci, non di meno a occuparlo nel ministero ecclesiastico si determinò non tanto per quel che di lui conosceva, quanto per la pubblica fama di sue virtù. Così in ogni tempo la Chiesa ha richiesto e richiede nelle persone da promuoversi a sacri ordini la pubblica opinione di virtù e di pietà e di santi costumi. 16,3. Lo circoncise per riguardo dei giudei, eci. Tutti potean sapere che Timoteo non era circonciso, perché la madre giudea non aveva potestà di ciò fare contro il volere del padre gentile. Esse Paolo adunque, il quale si prometteva che Timoteo farebbe gran frutto tra gli ebrei di Macedonia, sapendo che questi non piccola pena avrebbero avuto a trattare con un uomo incirconciso, e non avrebbero forse per tal cagione voluto ascoltarlo, determinò per il maggior bene della Chiesa di circoncidere Timoteo. Egli fu in ciò, come dicono i padri, guidato dallo stesso Spirito di Dio, il quale in altra occasione lo aveva renduto inflessibile verso coloro i quali volevano che egli soggettasse alla circoncisione il suo discepolo Tito. Così in differenti circostanze dimostrò col fatto che la circoncisione non era necessaria alla salute, né cattiva per sé medesima. E con mirabil temperamento seppe indirizzare tutte le cose alla gloria e alla dilatazione della Chiesa di Cristo. 16,6. Fu loro vietato di annunziare la parola di Dio nell'Asia, vale a dire nell'Asia proconsolare all'intorno di Efeso. A Dio solo sono note le cagioni per le quali volle che l'apostolo, lasciato da parte un paese a cui si trovava vicino, andasse in più remota parte a portare la luce del Vangelo. A noi tocca di adorare e temere le sue disposizioni sempre giuste e sante. Non andò molto che a lui piacque che lo stesso apostolo andasse ad Efeso e vi si trattenesse per 2 interi anni con molto frutto. 16,8 Giunsero a Trode. Questa Trode è la provincia così chiamata, che contiene la parte marittima della Frigia. 16,9 Un uomo di Macedonia. L'angelo tutelare della Macedonia, il quale si fece vedere all'apostolo vestito all'uso di Macedonia, e parlando il linguaggio di quel paese. 16,10 Cercammo di partire. Questa maniera di parlare dimostra che esse Luca era già divenuto compagno dell'apostolo, cui egli di poi seguitò in tutti i suoi viaggi, come osserva esse Girolamo. 16,11 Da Trode. Andammo a Samotracia, e il di seguente a Napoli. Imbarcatisi nel porto di Trode passarono all'isola di Samotracia, donde navigarono sino a Napoli, piccola città, nel seno strimonico sui confini della Tracia e della Macedonia, non lontana da Filippi. 16,12 Filippi Colonia, che è la prima EC. Questa città era stata così chiamata da Filippo re di Macedonia, padre di Alessandro il Grande, ella era colonia romana, vale a dire abitata da cittadini romani, i quali vi erano stati trasportati a fine di ripopolarla dopo le ultime guerre, e perché servissero come di presidio per tenere in soggezione il paese conquistato da Cromani. S. Luca dice che Filippi era la prima città di quella parte di Macedonia, non contando Napoli, o perché non fosse città, ma un semplice borgo, o perché questa fosse considerata piuttosto per città della Tracia che della Macedonia. 16,13 Dove pareva che fosse l'orazione, eci. La voce greca, che può aver doppio senso, è stata tradotta dall'autore della nostra Vulgata con la voce orazione, ma propriamente in questo luogo va inteso il luogo della orazione. La voce proseuche in significazione di sinagoga, ossia di luogo destinato alle adunanze degli ebrei, è conosciuta e usata anche dagli scrittori latini. La differenza tra le sinagoghe e le proseuche pare che fosse la stessa che quella che è tra le chiese e gli oratori, le sinagoghe essendo nelle grandi città, dove era grande il numero degli ebrei, e le proseuche fuori delle porte nei luoghi, dove o pochi erano gli ebrei, o non si permetteva loro di avere sinagoga nella città. Con tutto ciò è Giuseppe ebreo e Filone usano talvolta ambedue queste voci nel medesimo senso, e le proseuche pongono anche nelle città. 16,14 Una certa donna della città di Tiatira, Iciorium da di Tiatira, benché abitasse con la sua famiglia in Filippi, dove probabilmente faceva smercio delle vesti di porpora che si lavoravano eccellentemente dalle donne di Lidia, dove è Tiatira. Timorata di Dio. Gentile di origine, ma giudea di religione, ossia proselita. Qui il Signore aprì il cuore e ci mosse con l'interiore sua grazia Dio il cuore, e la volontà di questa donna ad abbracciare la verità predicata da Paolo. 16,15 E ci fe forza. Con le sue istanti e affettuose preghiere, dalle quali si scorgeva quanto bene conoscesse ella la grandezza del beneficio ricevuto da Dio per mezzo di Paolo e dei suoi compagni. 16,16 Che avea lo spirito di Pitone, e Cipitone è uno dei nomi dati ad Apollo dal rispondere che egli faceva a chi andava a consultarlo. Questo mestiero faceva questa serva posseduta dal demonio, per mezzo di cui avea acquistato nome di indovina con molto vantaggio dei padroni. 16,17 Questi uomini sono servi di Dio. Poté il demonio rendere questa testimonianza alla verità o forzatamente per volere di Dio, secondo il sentimento di alcuni padri, a confusione e ravvedimento di coloro che prestavano fede alle sue parole e alle sue predizioni, ovvero, come altri pensano, di suo proprio capriccio per adulare e rendersi favorevole l'apostolo e i suoi compagni, per tentarli di vanagloria e far loro tutto il male che potesse, prima di essere da essi cacciato da quella donna, come lo era stato da tante persone per opera dei discepoli di Gesù Cristo. 16,18. Ma Paolo, annoiato, non potendo soffrire più lungamente le lodi dategli da questo padre della bugia, col quale nessuna comunicazione aver dee un cristiano. 16,19. Ai decurioni. I decurioni erano il pubblico consiglio delle colonie, e questi certamente ha voluto indicare la Vulgata con la parola principi, ossia principali. 16,20. Essendo giudei. Il nome giudeo era odioso presso i romani. Questi, non molto solleciti di informarsi delle cose riguardanti il cristianesimo, confusero nei primi tempi comunemente i cristiani con i giudei, e credettero che fossero una cosa medesima. 16,21. E predicano cerimonie, eci. I romani aveano per massima di governo di non permettere che si adorasserne altri di, né con altro culto, che con l'usato nella loro repubblica. È però vero che con tutto questo Roma fu in ogni tempo, e principalmente negli ultimi periodi della sua grandezza, comune ricetto di tutte le superstizioni e di tutte le maniere di idolatria, onde fu dopo sovente di rinnovare questa legge, la quale non poteva essere né giusta né utile alla società, se non supposta la verità della religione che si teneva da Romani. Ma l'assurdità e la falsità delle opinioni allora regnanti intorno al culto divino essendo manifesta, non era egli da desiderare e da chiedere che un miglior lume venisse a dissipare si dense tenebre, a stabilire dei sentimenti più uniformi, più retti e più convenevoli intorno all'esser divino e intorno alle regole de costumi da osservarsi per meritare l'approvazione e i favori del cielo? 16,22. Lacerate loro le vesti, eci. Quelli che dovevano battersi secondo l'uso dei romani, si nudavano, e ciò facendosi dai littori con poco riguardo all'umanità, per lo più in cambio di cavare ai condannati le vesti, gliele stracciavano indosso. 16,23. Dando ordine al custode. Alcuni antichi hanno lasciato scritto che questo custode si chiamasse Stefana, e che fosse quello stesso di cui parla Paolo nella sua prima lettera a quei di Corinto. 16,24. E strinse in ceppi i loro piedi. Il greco dice nel legno. Questo era composto di due pezzi, i quali si riunivano insieme, e avevano a varie distanze delle aperture, nelle quali si incastravano i piedi dei carcerati, a maggiore o minor distanza un piede dall'altro, secondo che si voleva rendere maggiore o minore il tormento. 16,25. Oravano, cantando laudi e ci ringraziando Dio dell'onore che faceva loro, facendoli degni di patire per il nome di Gesù Cristo. Impero che tale era il costume degli apostoli in simili circostanze. 16,26. Venne un gran tremuoto. Con questo volle Iddio fare intendere che udiva le voci dei due santi ed era intento a liberarli. E si sciolsero a tutti le catene. Non solo a Paolo e a Sila, ma ancora a tutti i carcerati, a quali volle Dio far sentire il vantaggio d'essere in compagnia dei suoi servi. 16,27. Voleva uccidersi, eci. Per timore di non essere punito, quasi per sua negligenza fossero scappati i prigioni. Uno dei gravissimi errori del paganesimo, errore tenuto e seguitato non solamente dal popolo ignorante, ma anche da primari filosofi della Grecia, stoici, epicurei, platonici, e da questi tramandato a romani, i quali anche più dei greci lo mettevano in pratica, si fu, che fosse lecito all'uomo, quando che a lui piacesse, di privarsi della vita. I cristiani per lo contrario tennero sempre per infallibile che nei più duri cimenti la pazienza e la rassegnazione ai voleri divini debba essere la fortezza dell'uomo, e che qualunque morte è crudele e obbrobriosa debba egli piuttosto aspettarsi che, cedendo vilmente alle avversità e ai patimenti, infierire contro se stesso. Vedasi il gran martire S. Giustino, Apolog. I. S. Clem. Strom. 4:16,29. Si gittò a piedi di Paolo. Non poteva non fare una grande impressione nello spirito di quest'uomo il vedere come Dio si era sì visibilmente dichiarato in favore dei suoi santi, e come questi, potendo sicuramente fuggirsi dalla prigione, non lo avevano fatto. Ma il Signore, che il tutto aveva ordinato alla salute e conversione di lui e della sua famiglia, maggiormente lo illuminò, e il cuore toccògli con la interiore sua grazia, onde tutti i suoi pensieri rivolge ad imparare la via di piacere a Dio e salvarsi. 16:33. E fu battezzato Ecli. Immediatamente. Altri esempi di battesimo conferito senza ritardo abbiamo. Act. 8:38. X. 47. 16:15. Gli apostoli in questi casi conobbero col lume celeste, onde erano ripieni, che Dio supplito avea con la pienezza della sua grazia in questi neofiti al bisogno di più lunga istruzione. 16:35. Mandarono i littori a dire, eci. I littori erano propriamente, come diremmo noi, i donzelli dei consoli romani, i quali portavano un fascio di verghe legate insieme con in mezzo la scura insegno della suprema potestà. Qui significa i donzelli dei decurioni di Filippi, i quali portavano un bastone per indizio del loro ministero. Sembra che i magistrati si fossero già pentiti di quello che avevano fatto, e avessero riconosciuto l'ingiustizia commessa in maltrattare Paolo, e sì la senza cognizione di causa, e solamente per compiacere la moltitudine. 16:37. Ci hanno battuti pubblicamente, senza che fossimo condannati, e C.S. Paolo sapea valersi per onore della innocenza, e della causa del Vangelo anche del favore delle leggi. Era proibito nella ragion romana non meno che per diritto naturale di condannare un uomo senza aver prima esaminata la causa, sentiti i testimoni, pesate le prove e udite le difese, o in molto più il punirlo senza aver premesse tali cose. In secondo luogo, le leggi non permettevano che un cittadino romano fosse battuto, se non in caso che fosse stato condannato alla morte. E in ambedue queste maniere erano stati oltraggiati da quel magistrato i diritti di cittadino romano pubblicamente. Allorché si trattava di patire, di essere strapazzato, battuto, imprigionato per Gesù Cristo, Paolo non aprì bocca. Ma siccome un simile trattamento seguito in pubblica piazza poteva essere preso per una pena dovuta a qualche loro delitto, affinché il disonore dei ministri del Vangelo in pregiudizio del Vangelo stesso non ridondasse, pretese l'apostolo che i magistrati medesimi pubblicamente riconoscessero la loro innocenza e la ingiustizia della pena alla quale li avevano condannati. Chiesse Paolo godesse dell'onore e dei diritti di cittadino romano si vede da questo luogo e anche dal capo 22:25, in qual modo egli fosse non fatto ma nato cittadino romano, non possiamo con certezza spiegarlo. Alcuni credono che Tarso sua patria godesse per privilegio della cittadinanza romana, ma ciò non dimostrano con alcun valido documento. Altri pretendono che il padre, Olavo Comprato, avesse un tal diritto, come molti facevano. La qualcosa farebbe sempre più conoscere che esse, Paolo, era di ricca e doviziosa famiglia, come hanno lasciato scritto vari interpreti greci. 16:38. Ebber paura. Con ciò sia che secondo le leggi l'offendere un cittadino romano era lo stesso che offendere la maestà del popolo romano. Vedi Act. XXII, 29. 16:39. Li pregarono di partirsi e ci adducendo probabilmente per ragione la malevolenza del popolo contro di essi. 16:40. Veduti i fratelli eci. Non solo Luca e Timoteo, ma ancora i nuovi cristiani di Filippi, i quali furono come pietre fondamentali di una chiesa molto celebre, la quale conservò mai sempre un tenerissimo affetto verso esse, Paolo, e nelle sue necessità porse a lui più volte soccorso, e si meritò con la sua santità l'amore e gli elogi del medesimo apostolo, come vedremo nella bella lettera che egli le scrisse.